Io mi chiamo Patrocinio Nonato e dico nome e cognome. Lavoro qui da 4 anni, sì. Appena fatti ad aprile. Lavoro qua provvisoriamente perché c'è dietro un probabile inserimento lavorativo futuro, normale. E, sono arrivata qui attraverso servizi sociali, mio psicologo. Sono qui perché ho piccoli problemi di... non sono invalida, diciamo, piccoli problemi di ansia e depressione in relazione con gli altri. Ho già fatto dei lavori in passato in negozi tipo una tintoria, acqua, sapone, però non mi è andata molto bene e per intanto rimango nel lavoro protetto. Appunto aspiro a un lavoro futuro tipo anche magari un piccolo negozio dove magari sono io con la titolare e pochi colleghi perché appunto tipo il supermercato non ce la faccio perché ho problemi di relazione. La cooperativa sociale Club, da quando l'hai incontrata, cosa ti ha cambiato nella vita? Appunto mi ha dato la possibilità di tenermi impegnata, di fare qualcosa di socialmente utile per me e per gli altri, stare con persone con le quali non avrei mai pensato di stare, diciamo, da vedere anche il mondo un po' del sociale com'è da vicino, no? Certo. Tramite questo posto di lavoro ho trovato un'amica, la signora là, si chiama Donatella, ha avuto questa possibilità che ho trovato anche un'amica oltre che un posto di lavoro, quindi vedi i vantaggi proprio ci sono, mi piace stare qui anche se qualche volta bisticcio con qualcuno.